Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotto, lotta. Lotta, lotto. E allora, 13 e 16 minuti primi. Noi proseguiamo col nostro mega palinsesto della traversata delle 24 ore. È la volta di un argomento che è proprio principe nelle trasmissioni del martedì. Ogni mese minimo se ne parla da mesi e mesi. Il 22, la nostra sede liberata di femministe e lesbiche qui a Via dei Volsci. E ovviamente non poteva mancare, insomma, uno spazio su questa importante, quasi unica sede occupata dalle e autogestita dalle femministe e dalle lesbiche. Facciamo quindi un po' il punto della situazione, di quello che succede, le minacce da una parte, poi però le attività tante che vengono fatte. Sono molti i gruppi, infatti, che si vedono al 22 attualmente. C'è un calendario di rotazioni complicatissimo e quindi, insomma, facciamo appunto uno spazio di aggiornamento. Vabbè, sono tanti mesi che noi quasi ogni due mesi siamo a fare questa colazione resistente all'alba davanti alla sede. Siamo contente di essere sempre qua ad annoiarvi e annoiarci con questa cosa, perché vuol dire che siamo, insomma, che resistiamo, e quindi speriamo che questa cosa duri a lungo, anzi che a un certo punto smetteremo di parlare di questo e insomma avremo lo spazio mentale di concentrarci su altro. E niente, noi praticamente, vabbè, come sapete, da 3 anni stiamo lottando contro lo sgombero, mascherato sotto altre forme, nel senso che c'è ogni 2 mesi questo ufficiale giudiziario che viene dicendo che deve prendere le misure del posto per metterlo all'asta, e perché insomma lo spazio è di proprietà attualmente di una finanziaria che l'ha rilevato da una proprietà immobiliare che è fallita, e adesso insomma nelle mani di questa finanziaria che deve recuperare il credito, e quindi sempre che lo deve mettere all'asta. E quindi niente, questo ufficiale giudiziario, anzi questa donna che è ufficiale giudiziaria, viene per prendere le misure appunto per poterlo poi mettere all'asta. C'è questo cavillo giuridico per cui se le misure non vengono prese all'asta non si può mettere, cui ovviamente noi siamo lì a impedirgli di entrare. E diciamo che fino a qualche mese, insomma qualche accesso fa, diciamo fino a qualche tentativo di accesso fa, le cose sembravano relativamente tranquille, nel senso che insomma questa tipa veniva e poi tutto sommato ci vedeva lì e se ne andava. E nelle ultime 2 volte invece è venuta insomma insieme agli avvocati della proprietà e minacciando, cioè facendoci paventare quel rischio concreto dell'arrivo della forza pubblica, che anche lì per delle motivazioni che non dipendono dalla nostra volontà ma da come dire, una realtà di questo quartiere che non sta a noi stare qua adesso a scandagliare, ma di fatto la forza pubblica per il momento non è ancora venuta, però noi sappiamo che è una cosa imminente, purtroppo, come dire, cioè che non dipende da noi il poter capire quando si sbloccheranno delle cose per cui la polizia verrà o meno. E di fatto niente, noi in realtà siamo stati anche contattati dalla forza pubblica nello scorso, diciamo, tentativo di accesso. Noi insomma però non abbiamo accolto questo contatto, quindi di fatto insomma non sappiamo che cosa ci volevano dire, ma sicuramente ci volevano spingere ad accettare questa cosa di far prendere le misure. Insomma, fatto sta che noi saremo lì di nuovo il 12 marzo e a partire diciamo dalle 8 puntuali, e è importante che siamo lì in un buon numero, sicuramente dalle 8 ma anche dalle 9, perché in genere questo poi l'ufficiale giudiziario si presenta alle 9. E quindi niente, diciamo che rispetto ai mesi passati è importante di essere il più presente possibile. Sì, noi diciamo appunto, oltre a ricordare e a partecipare ai presidi, appunto non avendo la sfera di cristallo, non sappiamo insomma come andranno di volta in volta, ma effettivamente sì, è molto importante. Poi lo ricordiamo, stiamo parlando di un luogo appunto attualmente occupato, la situazione complessiva insomma delle sedi è molto disomogenea al momento, e quindi diciamo il 22 sta un po' tenendo in piedi, perché insomma entrando da noi, prendendo le misure, poi a quel punto ci sono interi lotti lì da mettere all'asta, e questa sorte riguarderà anche le sedi accanto a noi. Quindi diciamo riteniamo anche che proprio rispetto a quella via, la resistenza a questi accessi, insomma non è un'impontatura, è anche proprio molto molto sostanziale. Poi ci piacerebbe, ovviamente abbiamo cercato nel tempo anche di articolare qualche riflessione sull'importanza di avere un luogo fisico dove incontrarsi. Sappiamo che questi luoghi esistono, diciamo, in Europa, in Italia, nel mondo, e sono pochi e molto preziosi. A Roma ne abbiamo due, sostanzialmente, uno è il 22, l'altro è l'Una e le Altre, sono dei luoghi... l'altro è l'Una e le Altre, che però si trova, diciamo, ecco, a Spinaceto. Per cui insomma riteniamo che anche per le compagne che non usano costantemente il 22, anche se nell'arco della storia ovviamente sono trovate quasi tutte a usare il 22, vuoi per un'assemblea, vuoi per le riunioni, vuoi per fare un'iniziativa, insomma che sarebbe interessante, ecco, anche ritornare insieme un po' a riflettere sull'importanza di avere un luogo appunto fisico. Sì. No, è il volantino che abbiamo scritto per questa volta, in realtà è un volantino che abbiamo ripreso dal primo, che avevamo pensato tutte insieme, e che come incipit ha proprio la stanza di tutte noi, no? Perché l'importanza del 22, di posti separati per donne, femministe e lesbiche, in realtà è insomma il leitmotiv che ha accompagnato le nostre riunioni, le nostre riflessioni e la nostra politica, in realtà. E quello che ci siamo dette anche nell'ultima riunione, in preparazione alla giornata appunto del 12 marzo, perché come dire, ogni volta arriviamo a queste giornate sempre piene di insomma anche di ansia, perché quel posto per ognuna di noi è stato importante per alcuni passaggi e scatti di coscienza che ci ha avuto nella propria vita, no? Almeno per me lo è stato molto. E quindi anche insomma render conto di quanto la pratica separatista agita in questi luoghi, nel luogo come il 22, ma come dicevi te anche dentro l'Una alle Altre, sia stata, io qua me lo sono appuntato, perché poi però appunto è importante ribadire che la pratica separatista non è autoreferenzialità e isolamento, no? Ma certo, è assolutamente costruzione autonoma invece di pratiche e di pensiero per modificare se stesse il mondo, e probabilmente senza questo alcuni scatti di coscienza non ci sarebbero neanche mai stati, no? All'interno del movimento femminista e all'interno per esempio dei percorsi che io ho attraversato, e questo è uno dei motivi per cui quello spazio è prezioso per tutte noi, perché appunto la creazione autonoma di pensiero è una cosa difficile però preziosa al contempo, e per questo insomma bisogna assolutamente difenderlo. Sì, quindi esiste infatti una versione ulteriore, diciamo, del volantino, che poi è stata distribuita anche questa mattina a San Lorenzo, se non sbaglio, e vabbè, forse non ne diamo lettura, ma invita alla partecipazione al presidio mattutino del 12. E poi oltre al presidio in realtà invitiamo anche la sera prima a un'assemblea in cui organizziamo un po' la resistenza del giorno dopo, perché insomma pensiamo che in questo momento è bene dirsi un po' due cose su come starci, insomma, e capire insieme qual è una modalità insomma in cui ci sentiamo tutte tranquille e però insomma presenti e attive. E quindi in realtà ci vediamo appunto l'11 marzo alle 19:30, al 22, e poi insomma la mattina alle 8 puntuali. Bene, allora facciamo piccolissimo stacco musicale, poi parliamo anche di quello che succede poi dentro il 22. E allora torniamo in diretta allo spazio liberato da femministe e lesbiche del 22. Parliamo del laboratorio creativo che dentro, no, sta nascendo, è già nato e si sta sviluppando. E continua. E continua. Come va questo allora, laboratorio? Allora, sta andando abbastanza bene. Abbiamo fatto delle cose per insieme alle compagne del Porto Fluviale, della sala da tele del Porto Fluviale. Abbiamo fatto diciamo dei pezzi di carri per il carnevale antirazzista del municipio 11, mi pare. Dei pezzi di carro mascherato. Sì, abbiamo fatto dei cilindri da cui uscivano le cose belle e entravano le cose brutte. Vabbè, ma una cosa sì, divertente. E in realtà poi vabbè, il prossimo laboratorio oggi l'abbiamo sospeso perché stiamo qua, vogliamo stare qua anche nel pomeriggio. Il prossimo sarà il 22 di marzo e faremo una cosa, vabbè, con le magliette, i vestiti, per cui se volete venire portate vestiti scuri, vecchi, che faremo, trasformeremo. Oh. E, sempre dalle 6 alle 9. E vabbè, comunque insomma diciamo che sono tutte occasioni per fare delle chiacchiere, per anche incontrarsi con donne che abitualmente non frequentano gli spazi così di movimento. Stamattina è stato divertente, abbiamo volantinato un po' nel quartiere e appunto anche alle signore, anche grandi, dicendo venite, mo facciamo. E quindi speriamo che piano piano verranno anche altre. E ci vuole pazienza perché vabbè, tutte stanno impicciate con mille cose, per sì cui... sì, poi non è diciamo un territorio proprio molto facile, diciamocelo, dove far confluire donne. Il 22 è stato prettamente usato, anche se poi negli anni passati ha avuto un uso sociale anche diciamo di apertura al quartiere, però negli ultimi anni come sede di riunioni, quindi questo è un tentativo contemporaneo diciamo di aprire anche un po' al quartiere. Sicuramente sì, ci vuole un po' di pazienza. Voi avete iniziato con un corso di disegno? Sì, l'anno scorso, che in realtà non abbiamo tanto pubblicizzato perché volevamo un attimo capire anche come organizzarci. E poi invece quest'anno l'idea è quello proprio di aprire la sede il più possibile in modo che venga attraversata da un sacco di donne, e quindi abbiamo un piccolo angolo cibo, aperitivo, tè, dolcetti. Sono passate soprattutto, mi pare, cos'era, prima di Natale, no? Sono passate parecchie compagne e adesso in quest'ultimissimo periodo un po' meno, ma secondo me anche perché dobbiamo ricordare che c'è infatti, e infatti. Quindi pensiamo magari anche di volantinare un po' di più e fare altri. E poi perché no portare in giro queste creazioni, pezzi di camion, carro, eccetera. E poi comunque no, un'altra piccola riflessione che ci siamo ritrovati a fare tra di noi, che insomma cerchiamo di animare il laboratorio, che comunque è abbastanza difficile concedersi uno spazio, no, di semplicemente uno spazio di creatività, di relax, di ozio, di chiacchiere insieme. E quindi insomma invece, cioè nel senso che poi chiaramente avendoci un sacco di riunioni c'è la precarietà che ci attanaglia tutte, quindi i lavori che ci massacrano, e quindi in realtà poi è abbastanza difficile dedicarsi quelle 2 ore o 3 ore, no, per andare a disegnare o a stare semplicemente a fare 2 chiacchiere. E invece invitiamo tutte a farlo perché è proprio un momento di insomma di liberazione e dove in realtà poi insieme escono un sacco di energie belle e riusciamo a creare delle cose. Insomma, il ritorno è forte. Certo, infatti si può anche trovare un amante. Sì, sì, anche quello. No, però appunto, cioè noi in realtà in questa non so come dire, semplicità di fare le cose insieme, cioè crediamo che abbia un forte significato politico anche il fatto di aprirsi e parlare con chiunque passi in realtà. Sì, ci diciamo vuole sganciare anche un po' dall'idea del fare solo l'iniziativa o la riunione sempre con le stesse compagne, che ovviamente va bene, però insomma non c'è solo quello, ci stanno anche altre donne a cui vorremmo parlare, e quindi stiamo cercando di capire anche che linguaggio usare, perché certo, infatti, quindi proprio il fatto che magari anche dallo stare insieme semplicemente possano nascere delle cose che poi diventano un percorso comune, insomma. Eh certo. Quindi il laboratorio un venerdì sì, uno no, il prossimo è il 22 di marzo, appunto, con questi vestiti resistenti, e per cui se volete venire dalle 6 noi stiamo là, ditelo ad amiche, compagne, e infatti venite anche accompagnate, sorelle. Bene. E poi certo, sì, certo, il 12 vi aspettiamo alle 8, venite più possibile. Il 12 alle 8 colazione, l'11 per le compagne interessate, un incontro invece la sera per appunto organizzare il presidio del giorno dopo e comunque, insomma, ecco, questo periodo che si apre non proprio sotto le luci migliori, ma insomma, noi, ecco, tra laboratori creative, riunioni e presidi ci siamo. Ci siamo, resistiamo. Eccoci. Bene, allora grazie, chiudiamo questo spazio, incredibilmente, guarda, siete le più puntuali dell'inizio della maratona, penso. Va bene, e le trasmissioni proseguono ovviamente. A presto.